Grazie Paolo, Paolo Renatti, per essere dei nostri qui a Radio Gamma 5 oggi. Scusa anche del poco preavviso che ti ho dato per questa intervista, ma ho visto pochi giorni fa un tuo contributo video con Mauro Scardovelli e mi ha fatto risuonare tante cosette. Come stai intanto? Grazie, sono contento, sto bene, ti ringrazio tanto dell'invito, saluto tutti gli ascoltatori, ovviamente siamo qui in resistenza, siamo qua a cercare di portare fuori quello che serve per non perdere l'umanità. Bravo, hai detto poco. Ascolti, io ti avevo visto, pensa, tanti anni fa nella sala Papa Luciani di Padova, era organizzato, penso, dal dottor Roberto Gava. È uno degli ultimi congressi, perché poi la sala è stata comprata dal Dipartimento di Medicina di Padova e quindi non si è mai più fatto niente. Lì avevo visto il tuo primo contributo e veramente mi è piaciuto un sacco come hai trattato, ma vedendo anche l'ultimo qui da Scardovelli, ti faccio io proprio i complimenti per proprio l'analisi logica, se ti riesci a spiegare cose complesse, diciamo i massimi sistemi, alla portata veramente di tutti, e questo è una dote che non tutti possono vantarsi di avere. Ti ringrazio. Poi anche visti, eravamo insieme a Lignano, Sabbiadoro, sì, esatto, al convegno in coscienza del sistema. Sì. Guarda, siamo pochi, ma dobbiamo tenerci incordata, cercare di portare fuori un messaggio coerente e significativo per quanto riguarda gli errori delle credenze che stanno affliggendo tutto quello che sai, che si muove. Assolutamente. Il problema è tanto umano, ma anche epistemologico, ecco. Assolutamente sì, ecco, però due parole su di te, perché so che tu hai una laurea in fisica, c'è il, diciamo, laureato in fisica, allora, dei sistemi complessi, o sbaglio? Io ho un dottorato di ricerca in fisica dei sistemi complessi, tanti anni fa io ho fatto scienza e ingegneria dei materiali, che è un'interfacoltà tra fisica, chimica e ingegneria, sì. Poi mi sono molto buttato sulla fisica dell'acqua, l'elettrodinamica coerente nell'acqua, e da lì necessariamente è nata una visione capace un pochino di creare un'unione ontologica tra il mondo vivente e non vivente, perché voglio dire, siamo anche fatti di materia, e secondo me il dualismo tra virgolette tra informazione e materia non esiste, cioè è tutto vizio, è un vizio dovuto a una incapacità ancora di muoversi con una certa gestualità nella descrizione scientifica. Comunque, quindi, tanti anni di studio anche sulle cose del giudice, anche avendo avuto la fortuna di incontrarlo, preparata, Vitiello, eccetera, e poi sono arrivato un po' a dare una quadra anche alle basi proprio fisiche delle relazioni tra la percezione e la fisiologia, che sono un po' quello che ci spiegano le scoperte del dottor Hammer, cioè le cinque leggi biologiche. Perché le cinque leggi biologiche sono qualcosa che tutti quanti dovremmo capire, e che soprattutto i biologi e i medici, questo a me interessa spiegare, perché non voglio che si facciano, come dire, delle scelte perché una cosa ti ama, sì, a me piace quella cosa lì, mi sposo quella cosa lì, ma non ti devi fregartene di quello che ti piace o non ti piace, tu devi stare alla realtà. Le cose devono avere un senso e un'eleganza e una cogenza. E quindi ho cercato di spendermi per spiegare perché il sistema vivente è un sistema che risponde ai significati. Che cosa significa significare in fisica, sì, al di là di ogni linguistica, capisci? Ecco. Stupendo. Perché un'ameba è capace di rispondere e di capire se una cosa significa morte o vita, anche se non ha un cervello, anche se non parla. Quindi l'espressione significare, scusa la cacofonia, ma significa qualcosa a prescindere dal linguaggio. Ecco, quindi vuol dire che dobbiamo muoverci a un livello fisico, e io mi sono mosso su questo aspetto. E so che arrivi anche, Paolo, alla conclusione, che mi trova perfettamente d'accordo, che tutto è sensato, tutto nel vivente è biologico, cioè la conoscenza, sapienza della vita, saggezza della il vita. Il vivente in quanto sistema coerente, perché altrimenti tu non potresti neanche respirare se le tue molecole si muovessero come quelle di un gas, sì, e quindi se non avessi un ordine. In quanto esiste un ordine, significa che quando arriva uno stimolo ci sono due possibilità: o questo stimolo in qualche modo implementa la tua omeostasi, la tua coerenza, per dire hai fame, è nutrimento, che ne so, oppure la minaccia, la compromette. Allora, in quanto coerente, il sistema ha la possibilità di mettere in atto delle risposte e non solo delle reazioni, che servono a cercare di mantenere per quanto è possibile questa coerenza. Se cadi dal primo piano magari ti salvi, se cadi dall'ottavo no, capito? Chiarissimo, dopo comunque entriamo. Volevo però prima innanzitutto parlare con te del, visto che mi hai citato prima del discorso dell'informazione, là largo, perché quello che oggi noi stiamo vedendo è l'importanza dei media nella informazione, cioè nella formazione della coscienza umana, perché sono sempre più convinto che già il termine in quanto tale informare vuol dire dare forma, forma ovviamente alle coscienze umane. E appunto volevo chiederti, dopo anni che abbiamo visto dove crisi economica e subprime abbiamo, e vedevamo, assistevamo a persone che al bar parlavano di calcio, che ne so, magari gnocca e spread, tutti hanno diventati ormai economisti della Bocconi, e dagli ultimi 2 anni e mezzo a sta parte invece tutti esperti di virus, droplet, goccioline, spike, non ne parliamo, eccetera. Ecco. E quanto potere hanno, secondo te, Paolo, i media mainstream oggi nel veicolare un certo tipo di informazioni e quindi costruire un certo tipo anche di realtà? Il potere di fonti esterne su quello che è lo stato percettivo e quindi la coscienza, quindi la capacità, l'ampiezza di spettro con cui sei in grado di accorgerti di cosa c'è nel mondo, il potere di queste fonti esterne è tanto maggiore quanto è minore la capacità critica, la centratura biologica che ha ogni soggetto. Cioè, ti faccio un esempio, a gente come te o a gente come me il potere dei media è zero. Il problema è che la maggior parte delle persone si affida, ha uno spettro di percezione che è sostanzialmente confinato purtroppo da tutta una genesi dell'umano che caratterizza il come vengono anche cresciuti i ragazzi, l'ambiente culturale, la scuola che è un disastro, tutta questo sistema monetario, cioè tu cresci imparando a delegare, cresci imparando a sapere che ci sono come delle entità godlike sopra di te che gestiscono la vita ed è giusto così. Tutto questo, se viene introiettato senza una sofferenza, se viene introiettato senza un fastidio, che quindi genera una critica e genera delle domande, produrrà il fatto che dipenderai da questi media, dipenderai da quello che ti dicono, e tu sarai uno che dice: beh, ma cosa vuoi? Vuoi che siano tutti scemi o tutti dei farabutti quelli che usi? Cioè, hai bisogno di affidarti e sarai impermeabile a chiunque ti dirà che fino adesso forse hai delegato la tua informarti a qualcosa che in realtà forse non lo meritava, nel più migliore dei casi per incompetenza, nel peggiore dei casi, come sai, per deliberata fraudolenza. Quindi il potere dei media al momento è fortissimo, e l'unico modo per rendere basso questo potere è cominciare a sviluppare una connessione forte con la biologia, col corpo, col sentire il corpo non mente, e trovare una propria autodeterminazione esistenziale nello stare al mondo, imparare a capire che quelle le risposte ti arrivano dalla natura, non ti arrivano da degli strutti sociali, mediatici, economici e quant'altro. Assolutamente d'accordo con te, Paolo, grazie anche per questa spiegazione che veramente mi trova in totale coerenza, ecco, per usare un termine che ti sta a cuore. Sì. Certo. In tutto questo, adesso domanda da 1 milione di euro, cosa sono i virus? Visto che ormai tutti ne parlano, ci riempiamo la bocca, soprattutto negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma da mo, insomma, è sempre stato aperto il dibattito in questi esseri che la maggior parte delle persone non vedrà mai nella propria esistenza, però, stando alla narrazione, sono in grado di fare qualunque cosa immaginabile e anche inimmaginabile. Mentre entrando proprio nella biologia, ok, non nella narrazione e nelle storielle. Certo. Cos'è un virus? Beh, tra un po' saranno in grado anche di fare il caffè. ma guarda, intanto non sono degli esseri. Esatto. Primo. Secondo, il problema, guarda, ti cito, cioè la virologia sta ai virus come la teologia sta a Dio, cioè entrambe sono delle discipline che non sanno di cosa parlano, eppure ci sono delle discipline, cioè immaginati, no, esiste proprio, no, tutta lo statuto, no, per esempio della teologia, i precetti, i dettami su qualcosa che non conosce, ok? Io non ti sto dicendo c'è, non c'è, ti dico che non conosce. La stessa cosa la virologia, identica, cioè è un qualcosa pieno di dettami, di precetti, però che fai conti senza l'oste. 1. Non sono esseri. 2. Sono frammenti di materiale biologico. 3. Il fatto che trovi qualcosa dove c'è qualcos'altro non significa che la prima sia la causa della seconda. 4. Esatto. 4 è la modalità, anche ammettendo che ci siano, perché c'è un problema su questo, bisogna capire anche che cosa sono, ci sono dei grossissimi problemi su come dicono di vederli, cioè, diciamola tradotto, i metodi di isolamento. Sì. Ora, i virus non hanno nessuna differenza da un punto di vista morfologico, dimensionale, da quelli che sono, per esempio, i cosiddetti esosomi, i vescicoli extracellulari, che certo poi hanno uno span dimensionale che può andare da delle limiti molto piccoli, alcune vescicole sono anche di 15, 5, 10 nanometri, fino poi insomma circa delle altre strutture vescicolari che possono anche arrivare a qualche centinaio di nanometri. Allora, i virus sono tendenzialmente in questo range, e non si capisce perché, per esempio, c'è una tecnica ottima per isolare gli esosomi e quindi fare in qualche modo una buona distinzione, un isolamento, come dice la parola, cioè isolare vuol dire che riesco a tirartelo, a risolvertelo fuori da un contesto, mentre, guarda caso, non so, per i virus che hanno le stesse caratteristiche dimensionali, avrebbero in realtà la stessa struttura, e appunto questo è uno dei motivi per cui giustamente chi dice come li distingui i virus dagli esosomi, nessuno in realtà può dare una risposta. Si usano nelle altre cose, cominciano a partire altre tecniche, cioè cominciano a partire tecniche di coltura, dove però appunto uno dice: ma scusa, tu hai visto che questa coltura cellulare in cui tu dici che hai inserito questo liquido presuntamente da un soggetto che sarebbe tra virgolette infetto ha provocato morte cellulare? Sì, hai fatto il controllo? No. E se fai il controllo, cosa succede? Vedi che succede la stessa cosa. Perché il modo per trattare le cellule in teoria è tenerle pulite, cioè senza che ovviamente una volta che sono ex vivo e in vitro comincino a proliferare altri batteri e cosa fai? Mettere antibiotici, le devi tenere in starving, cioè non le devi nutrire, sono sottoposte anche a trattamenti ormonativi e poi che succede? E muoiono. Scusami tanto, grazie al cavolo che muoiono, capisci? E quello lo concludo dicendo: vedi che c'è il virus, senza in realtà averlo isolato. Poi c'è l'altra cosa che in teoria ha la pretesa di essere più scientifica, che è la PCR. PCR che, se tu vai a vedere come viene fatta, in realtà tu dovresti fare una PCR, ovviamente, cioè cosa vuol dire? Una polymerase chain reaction, cioè una possibilità di campioni, diciamola così, si chiamano primer, ma campioni di tratti di genoma sufficientemente significativi di una cosa che certamente sai che è di qualcuno, allora poi tu fai partire questa reazione in un certo diciamo mix, e se vedi che viene amplificato questo, c'è una risposta numericamente consistente di questo di questo tratto di genoma, allora tu potresti dire: sì, guarda che c'era, perché ho visto un'amplificazione. A parte che appunto, uno, dovresti avere esatto un gold standard, quindi dovresti avere per certezza una roba che sai dire di chi è, ma questo non c'è, perché appunto quando tu prelevi questo tipo di campione genomico, in teoria, tu lo stai facendo da una roba che è mista, dove c'ha il 95% di roba che è dell'ospite, e in teoria un 5% di roba che potrebbe non esserlo. Potrebbe, perché ripeto, chi l'ha detto che il virus è qualcosa che viene da fuori e non è qualcosa che produci tu, in quanto potrebbe essere esattamente quello che si chiama un esosoma? Quindi tu capisci che allora cosa succede? C'è una ricorsività di domande che si mordono la coda, cioè già per giustificare una risposta a una domanda di quelle che ti ho fatto avresti dovuto dirimere quella prima, ma quella prima non l'hai diremta, perché è comunque affetta dal problema metodologico che ti ho appena spiegato, eccetera eccetera. Quindi praticamente, non voglio appesantire, cosa te la faccio breve, viene fuori un castello in aria impressionante, dove tutti parlano dell'arredamento, delle finestre, dello stile, delle bifore o del tipo di tegole che vogliono mettere. Peccato che nessuno sta guardando che è in aria, e quindi non reggerà mai, cioè non potrà mai essere fatto. Eppure la potenza narrativa di una storia dà al contenuto di questa storia una parvenza e di realtà come se fosse un fatto, e questo è quello che succede. È come dirti: cacchio, ma tutti gli anni a Natale i regali li trovi sotto l'albero, no? E allora quella è la prova che c'è Babbo Natale, tanto lo sanno tutti che i regali a Natale li porta lui. Cioè è la stessa cosa, è un'ipnosi, tutti parlano di Babbo Natale, ci sono i regali sotto l'albero, ma certo che c'è Babbo Natale, chi altro vuoi che sia? È ovvio che, vabbè, questo fa ridere, perché la gente sa che non c'è, ma però hai capito cosa intendo, no? Quindi io non voglio essere andato troppo nel tecnico, ma se no, vuoi no. Ci vado, non è un problema. No, no, sei stato chiaro, Paolo. Possiamo dire anche che gli esosomi, che rientrano nella biologia, nel senso queste vescicole, possono essere viste anche come scarti cellulari, cioè una cellula muore, abbiamo miliardi di cellule che vengono cambiate ogni istante, e la parte mitocondriale viene distrutta, dei frammenti che rimangono possono essere visti come esosomi e quindi anche come virus, punto di domanda? Ma in realtà assolutamente sì, cioè quando ti dicevo che nella cultura poi quando le cellule morivano poi trovavano questi in qualche modo, nel migliore dei casi, se non si fermavano a dire vedi le cellule sono morte, quindi vuol dire che c'era un virus, ma anche se avesse la raffinatezza di andare poi a fare una filtraggio, una flottazione, si trovassero queste particole esattamente come hai detto sono il risultato della, in qualche modo, della clastia, no? Cioè della demolizione cellulare, dell'apoptosi anche cellulare, cioè il fatto che queste cellule si disgregano e sono non solo anche cellule in quanto, come dire, corpus intero, ma ci sono anche delle sottoparti, pensa ai mitocondri e quant'altro. C'è una posizione tipicamente molto, sì, diciamo, molto sposata nel mondo steineriano dell'antroposofia, che dice che i virus sarebbero gli scarti, eccetera. Io non sono sicuro che, cioè, non penso che sia solo questo. Io penso che proprio c'è anche la trasformazione, no, del materiale. Cioè la cellula adesso ha avuto il segnale di fine lavori, perché sappiamo che, voglio dire, anche il segnale dell'apoptosi all'interno di un organismo, alle cellule, arriva dall'esterno, non è che arriva dall'interno, se non perché c'è stato qualche danneggiamento cellulare, in qualche modo, che quindi la cellula in qualche modo perde di funzionalità e diventa morta, tra virgolette. Ma allora questa cosa vuol dire che creo quindi una trasformazione dalle cellule ad altro, quindi queste vescicole, ma queste vescicole vengono riutilizzate. Quindi io non so se sia corretto dire che sono gli scarti, sicuramente aumentano proprio perché c'è stress ossidativo, c'è moria cellulare, nei momenti appunto in cui ci sono dei processi in qualche modo in atto, di risposta biologica in atto. Se vogliamo entrare un attimo nel dettaglio, si potrebbe dire che il ricambio, come giustamente dicevi tu, cellulare, è ubiquo e quotidiano, ovviamente per fortuna. Poi è chiaro che, come sai, magari abbiamo dei foglietti embrionali, no? Che sono da endoderma, mesoderma ed ectoderma, che potrebbero in qualche modo, come ci aveva un po' suggerito qualcuno in precedenza, come sai, potrebbero avere l'esigenza, o meglio, sfruttare appunto determinati percorsi microbiologici o biochimici diversi, tale per cui quindi quando hai da demolire un tessuto in eccesso, non so, in un foglietto come l'endoderma, ti fai aiutare dai funghi e micobatteri. Quando invece devi riparare, ricostruire, non so, un ectoderma, magari fai afferire e accorrere in quel sito materiale di ricostruzione, quindi gli scarti di magari cellule che prima erano andati in fase attiva in necrosi e in riduzione, che quindi poi riutilizzi. Cioè, voglio dire, capisci cosa sto dicendo, no? Quindi in realtà questo tipo di etichettatura dei virus, senza pretese di verità assoluta, ma come vedi in realtà bisognerebbe essere onesti, cioè c'è ancora tanto da comprendere, è molto dinamico. Una cosa però certa è che non sono distinguibili da quello che faresti tu, appunto, come cellule endogene, e soprattutto non sono degli esseri viventi. Quindi se anche io vedessi un domani che questa cellula si include, fagocita in qualche modo, ingloba questo esosoma barra virus, chiamalo come preferisci, il soggetto attivo chi è qua? È la cellula. Ma se la cellula decide qualcosa, non è che la fa da oggi e neanche da ieri. La sta facendo dopo un'evoluzione filogenetica e un adattamento in cui, se quel processo avviene, è perché è stato già ben collaudato, capisci? E tra l'altro uno potrebbe dire, sì, ma questo qui è un virus ingegnerizzato, quindi la cellula potrebbe inglobarlo e poi si trova fregata perché c'è dentro, come dire, il cavallo di Troia, c'è la sorpresina. Ma anche qui pare appunto, come anche ci aveva fatto vedere Stefano Scoglio, che le cellule non sono così fesse da includere del materiale, come dire, addirittura del genomico, che sia semplicemente ribonucleico o desossiribonucleico, quindi RNA o DNA, sì. Così a babbo, a capocchia, che poi dopo dentro, oh cavolo, questa roba non è giusta, però adesso siamo nella cacca e quindi siamo fottute. No, non è così. Ci sono appunto delle ribonucleasi, che sono sia endo che esocellulari, che provvedono in teoria a distruggere questo materiale. Quindi qui si potrebbe anche aprire un commento su cosa stanno facendo i sieri. Secondo me stanno facendo un grande casino, ma forse non tanto dal punto di vista genetico, ma proprio da un punto di vista biochimico, da un punto di vista di creazione di dissesti fisiologici, vedi i coaguli, vedi le infiammazioni croniche, eccetera, eccetera. Ma quello sull'accambiamento del genoma, secondo me, è ancora da verificare. Con questo non tolgo niente alla gravità della cosa, che sia chiaro. Sì, ecco. Sì, no, non avevo dubbi. In tutto questo, Paolo, cioè queste, teniamo un attimo insieme, torniamo a questo cambio di fisiologia, questi processi distruttivi, catabolici, che fanno parte della vita. Esatto. E nel momento in cui avvengono, è chiaro che se io vado lì con la lentina di ingrandimento, troverò sempre questi scarti, questi esosomi, certo, queste vescicole, che però, essendo lette come virus, chiaro che loro confondono da sempre causa con l'effetto, e lo vedremo poi anche per quanto riguarda gli esseri viventi, batteri e funghi. Quindi vengono trovati, o meglio, ma non sono la causa. Scusami l'inciso. Certo, scusami l'inciso veloce, oppure confondono causa con prossimità. Cioè qui c'è un grosso problema. Il problema della causazione in biologia è un problema che è stato troppo trascurato. Ti faccio un esempio banale, cioè se io prendo un mozzicone di sigaretta e te lo spengo sulla mano, allora io questo processo creerà sicuramente un livello che è la reazione, cioè data da leggi che sono puramente deterministiche, diciamo che sono supportate da proprio quelle dinamiche fisiche e termodinamiche, quindi quella temperatura altererà quelle proteine, farà quella denaturazione, sarà quella disidratazione, quelle reazioni. Se tu sei un cadavere, questa cosa si ferma lì, ma se tu sei un vivente, c'è un secondo livello che è la risposta. Sì. Ma appunto la risposta come viene attuata? Viene attuata con un senso, che poi se vuoi commentiamo su come è stato generato, che se non viene capito è come se uno venisse lì e ti dicesse è come se ti dicesse la sigaretta accesa, spenta sulla mano, è la generatrice di guarigione, perché quel processo che avviene è una guarigione, è una cicatrizzazione, capisci cosa voglio dire? Allora, detta così, è un modo semplicistico che non fa capire che quel processo che stai osservando, come per esempio una cicatrizzazione, non è che di per sé è provocato dalla sigaretta. Così come se arriva anche un batterio esterno, un virus esterno, il processo che vedi non è di per sé to cure provocato da quel batterio, da quel virus o da quella tossina, ma è la risposta migliore che il corpo può dare, evoluta attraverso adattamento e coerenza e memoria, in corrispondenza di quello stimolo. Allora uno dice, vabbè, che cambia, se poi tanto quando arriva quella cosa, quello stimolo, io mi ritrovo ad avere dei sintomi, che cosa cambia il cambio di visione? Cambia tantissimo, perché? Perché se io so che quella è una risposta, capisco che parlare di cause, capisci, no? Vedi, è semplicistico, che è come dire, ma la mamma è causa del bambino? Ma non lo so, vediamo, ho provato a non nutrirla, no, la gestazione si è interrotta, ho provato a non farla respirare, no, la gestazione si è interrotta, ho provato a chiuderla in una campana di vetro, allora il primo conclude che il bambino è generato dal cibo, il secondo conclude che il bambino è generato dall'aria, hai capito cosa voglio dire? Cioè con questa visione semplicistica, dove non capisci che per parlare di causazione in biologia devi sempre avere un'ottica relazionale, devi guardare tutto il concetto di, come dire, di organizzazione degli stimoli tra loro e dei loro rapporti, se tu non fai questo, ti trovi a fare quello che fa la medicina e la biologia oggi, semplicisticamente. Ossia, quello che ti posso dire secondo me essere il SARS-CoV-2, se ammesso che ci sia qualcosa, è semplicemente una tossina. Una tossina proteica, pur anche magari sintetizzata, che se qualcuno se la respira, ha dei sintomi. Se tu prendi del veleno d'ape in buona quantità, lo liofilizzi e lo lasci in un sacchettino appeso in un supermercato, la gente che se lo respira ha delle risposte edematiche di forte e di crisi respiratoria potente, ma non è perché c'è il virus, capisci? Cioè che c'è una specie di esserino cattivo che va lì e fa impazzire le cellule e le spacca, è perché c'è una tossina, come se apri frigo e ti bevi dell'ammoniaca anziché dell'acqua, hai una risposta. Questa risposta appunto però non è, come dire, di per sé causata dall'ammoniaca e basta, quello è l'innesco, ma quello che è il processo che vedi è organizzato da tutto un adattamento che fa sì che quello sia la cosa più sensata e più utile che serva. Quindi in quel caso ovviamente non ti gratti la testa se ingoi l'ammoniaca, ma vomiti, capisci? Quindi c'è tutta una orchestrazione che deve essere compresa. Poi i sintomi devono da gestire, benissimo, sì, sono da gestire, ma sarebbe bello che si togliesse alla gente la credenza che quello che stanno vivendo è il corpo che ha perso il controllo. No, non ha perso il controllo. È il corpo che sta facendo delle risposte in fisiologia utili e che io, tra l'altro, posso accompagnarti, aiutare a gestire, tipo appunto una infiammazione polmonare, respiratoria, una difficoltà in qualche modo anche a scambiare ossigeno, che è qualunque cosa tu vuoi. Però gli faccio capire alla persona che questa è la risposta sensata a quello che è stato un insulto, ma un insulto non della natura, ma un insulto di una tossicità, di un qualcosa del genere. Ecco, scusa se ho fatto questa cosa, perché volevo farti capire appunto il discorso che si confonde causazione con prossimità o con presenza. Ecco. Chiaro, chiaro. Quindi da questa, diciamo, visione, la risposta, che dopo noi chiamiamo 20-30 mila nomi diversi, ma malattia, è la sapienza magistrale, sì, del corpo in un momento particolare in cui c'è stata una reazione a monte. Quindi questi si chiamano programmi biologici sensati, che hanno milioni di anni. Detto proprio, insomma, in stampatello. Stampatello, bravo. e mi è piaciuto molto, sapevo dove andavi a parare, quindi è per quello che oggi sei qua in radio con me, quindi proprio mi stendi il tappeto non rosso. No, io tra l'altro ti ringrazio, Marcello, perché sei uno dei pochi che riesce a diffondere un po' queste conoscenze su scala grande, quindi stai facendo del bene, ti ringrazio come essere umano. Grazie a te, Paolo, grazie per queste parole, mi fa solo che piacere, me lo sento, non è neanche un dovere morale, sento che va fatto e punto, e quindi avendolo, certo, toccato sulla mia pelle, non è più una qualcosa che ho letto nei libri, esatto, ho studiato un crucco, certo, quella è la prima fase, ma poi toccandolo sul mio culetto, nella mia vita e con le persone che conosco, esatto, che conosco, ho dubbi meno di zero. E veniamo adesso al motivo di questa intervista, Paolo, ma sei già entrato in maniera, ecco, prepotente, ne sono felicissimo. Ha uno dei passaggi storici che a me, io adoro dal punto di vista storico, dopo so i danni che stiamo vedendo oggigiorno, di quel diatriba pazzesca che è avvenuta intorno all'epoca, verso la metà del XIX secolo, eravamo in Europa, in Francia, tra dei personaggi, uno diventato la pietra miliare, Louis Pasteur, che tutti conoscono, bambini inclusi, e farmacista, chimico, eccetera, e invece pochi, perché io poi quando faccio le mie lezioni ho spesso anche medici, ho sempre chiesto a tutti, ma avrei conosciuto, studiato Antoine Béchamp? La risposta ovviamente era assolutamente no, non so neanche chi sia. No. E passaggio storico epocale, cos'è avvenuto in quel momento lì, che ci stiamo trascinando tuttora, oggigiorno? Ma guarda, quello che è avvenuto dal punto di vista storico, come sai, è una tragedia, nel senso che è stato sottoscritto un paradigma, un modo di guardare le cose che faceva comodo, cioè quello di Pasteur. Perché faceva comodo? Perché in qualche modo, in questo modo, cioè, perché così, scusami, avevi la possibilità di raccontare che tu, sistema, davi la soluzione per un problema che in qualche modo per il quale non ci si poteva far nulla, perché di fatto la vita, la biologia è quella, le cose si incontrano, i germi ci sono, e quindi bene o male, se sei un tic e tac, ti ammali, e quindi io ti aiuto, no? Anzi, cerco di debellarli anche a monte, no? Per dire. Quindi quello che è successo a buddista epistemologico e storico è una tragedia. Poi se vogliamo entrare nella, come dire, un attimino nel merito delle due visioni, il punto è questo: Pasteur ha avuto buon gioco perché lui appunto si occupava, lui soprattutto all'inizio lavorava come consulente per un birrificio in Francia, e che aveva dei problemi con le, diciamo, l'avaria in qualche modo per confermentazioni alterate dei prodotti, e lui si era messo lì un po' a studiare per cercare di capire come risolvere i problemi, per cercare di far sì che l'organolessi in qualche modo dei prodotti di questo birrificio non venisse alterata. E cosa fa? È chiaro che ha cominciato a concludere che, in quel caso è anche vero, che questi cosiddetti germi, caso lieviti per esempio, erano responsabili della fermentazione, e se ce n'erano alcuni avevi un certo tipo di percorso, con un certo tipo di risultati, di trasformazione, se ne avevi altri, altri. Il problema qual è? Qual è stato l'errore metodologico? L'errore metodologico è stato estrapolare la dinamica che tu stai guardando in materia morta in materia viva. Mm-hmm. Cioè la birra o un frutto colto e lasciato lì, oppure del latte, che ne so, vedi poi la pastorizzazione, poi possiamo facciamo un commento su questo, non è, come dire, una lepre o una pianta intera o te, un vivente. Questo è stato l'errore. Cioè credere che quello che guardi nel micro in qualche modo sia la risposta del perché. E invece quello lì è solo la risposta del per come. Cioè, la fermentazione della birra, per esempio, avviene tramite, per esempio, il lavoro del lievito. Oppure, passiamo alla materia viva, la demolizione di un adenocarcinoma avviene tramite il lavoro della candida, per esempio, o dei micobatteri. Ma non è che la causa la fanno loro, la causa è nell'organizzazione, laddove è presente. E allora vedi qui la differenza. Se la materia vivente esiste un'organizzazione, che come sai le leggi biologiche ci hanno fatto ben capire, cioè c'è una situazione, ambiente più essere vivente, ha un significato biologico, attiva una risposta che si muove appunto su tutti i livelli del sistema vivente e che ha delle fasi. Di questo appunto che tu hai giustamente detto prima, di questo programma biologico sensato. Ma laddove questa organizzazione non ci sia, perché per esempio hai preso una cosa e l'hai estrapolata dal vivente, quindi sei in vitro, oppure perché è un sistema morto, quindi il latte della mucca l'ho preso e l'ho messo in un secchio, è chiaro che questo segue delle traiettorie diverse. E l'errore di Pasteur è stato sostanzialmente questo, ma è stato sfruttato benissimo, perché dicevano, caspita, se riusciamo a far passare questa cosa, dove quindi la gente deve praticamente difendersi da questi ubiqui microrganismi e noi diamo in qualche modo l'antidoto, è fatta, hai capito? Invece Béchamp cosa ti diceva? È chiaro che non aveva ancora una visione del terreno matura come potremmo averla adesso io e te, in qualche modo senza essere arroganti, ma anche molti altri ovviamente, ma per dire, cioè a valle di tutta quella ovviamente cultura e conoscenza che è stata fornita da tutto il filone degli studi sullo stress, e io mi riferisco soprattutto a, per esempio, Selye, ma soprattutto a Henri Laborie e ovviamente Hammer, non aveva questa cosa, questa completa conoscenza del fatto che quindi l'endo è un programma biologico, però aveva cominciato a buttare lì l'idea il fatto che, caspita, e non era l'unico, poi possiamo citare gli altri, che sono, per dire, anche Reich, che sono Nassen, che sono anche poco conosciuto Bongan Kim su certi aspetti che io ho approfondito in certi moduli di formazione, ma insomma aveva capito che il germe era lì, compariva nel momento in cui un terreno aveva delle caratteristiche, cioè aveva in qualche modo delle necessità. Lui forse all'inizio parlava di squilibri, ma in realtà noi potremmo parlare di necessità. Ecco, gli altri sono appunto Enderlein, no? Anche sì. Nightingale, anche il nostro Arnoldi, eccetera. Allora, quindi, lavorare sul terreno era un qualcosa ovviamente molto più complesso, anche perché al tempo appunto non si era ancora capita il ruolo della percezione biologica sulla fisiologia. E un po' quindi, per lo stesso motivo per cui la biologia, la developmental biology, cioè la biologia dello sviluppo, quella che era incentrata sull'idea di un campo morfogenetico, sul fatto che c'era un campo che organizzava la materia, tutta la questione della morfogenesi, che nella medicina, nella biologia molecolare, è rimasta assolutamente irrisposta. Così come questa biologia dello sviluppo è finita col soccombere rispetto all'approccio biochimico locale, microscopico, anche l'approccio del terreno, non essendoci ancora degli strumenti precisi che potessero dire, beh, ma perché allora in questo caso quel terreno fa, invento, polmonite, o quello fa dermatite e questo non fa niente, è stata man mano surclassata. E poi, come tu avevi già ben spiegato molto bene nell'intervento di Lignano, è stata fatta un'opera culturale devastante, soprattutto a partire dalla cosiddetta AMA, cioè dall'Associazione Medica Americana, dove nel giro di, mi ricordo che hai spiegato benissimo, di circa 80 anni, hanno fatto sparire tutti quei poli culturali che portassero fuori una visione medica diversa da quella che doveva essere quella centrata sui germi, sulla biochimica, sugli antibiotici, e quindi hanno spento tutta l'omeopatia, hanno spento l'omotossicologia, hanno spento tutto un sacco di cose. Quello che chiudo, mi sento ancora di dirti, è che la cosa secondo me interessante di questo, cioè che è importante da chiarire, che ci sono, diciamo, due approcci sulla teoria del terreno, no? Un approccio forte e un approccio debole. L'approccio debole ti dice: sì, il terreno gestisce lui l'esserci o meno di germi, ed è in qualche modo indebolito laddove ci sono, per esempio, fattori di intossicazione, stress e quant'altro, allora i germi hanno sopravvento. Questa è una teoria, secondo me, comunque ancora inesatta, perché ti dice praticamente che il germe comunque è il patogeno, è l'ammalante, solo che tu eri troppo debole e non hai saputo difenderti. Ma come tu sai, c'è un pochino da rivisitare anche il concetto di sistema immunitario, che non è più soltanto una sorta di dogana per dire no, tu entri, ma è un sistema di modulazione, tu non entri, scusami, ma è un sistema di modulazione. Sì. E quindi, così come appunto durante certe fasi del processo biologico dici ai batteri fate il vostro lavoro e quando avete finito vi leviamo dalle palle, detta proprio molto bene, sì. Questa è un ruolo importante che va riconosciuto, perché i globuli bianchi se la sognano ben bene di sterminare, che ne so, i TBC, quando c'è da erodere una massa di adenocarcinoma, solo quando hanno finito il loro lavoro, allora poi li tolgono, così come non li spengono quando stanno ancora proliferando ma sono inattivi. Mentre poi, chiaro, rispetto a tutta una sorta di flora che non ha da essere, questo è il ruolo che fa il sistema immunitario. Capisci, è una questione di biologia, cioè di senso biologico. Ci sono cose che in certi siti non ci devono stare, quindi se una ferita ti finiscono sopra degli escrementi, è chiaro che verrà attivata una risposta infiammatoria e di iperaffluenza dei globuli bianchi, perché lì quei batteri non hanno senso di esserci. Ma non è necessariamente qualcosa di pensare dall'esterno. Se anche tu prendi un pezzetto di mucosa intestinale e te lo ficchi sotto la guancia, sotto pelle, fai un processo. Ma cosa vuol dire? Che ti sei contagiato? No! È che lì c'è un processo biologico per far fronte a qualcosa che di senso biologico non aveva. Ecco, capisci? C'è tutto proprio un cambio molto sottile, molto sfuggente. Le persone vanno accompagnate, anche i medici, i professionisti, che ormai si sono molto, poveretti, anche intrisi di questa visione, vanno proprio accompagnati per riscrivere piano piano tutto un modo di guardare le cose, no? Chiudo con la cellula impazzita. Ma anziché chiederti che cosa c'è di sbagliato una cellula che ha un'espressione diversa, per esempio anche genomica, la causa della cui differenza la troveresti soltanto allargando le braccia dicendo ma chissà, ci sarà stato qualche errore, cosa che non è possibile perché la materia è coerente, dovresti chiederti che cosa deve fare di diverso questa cellula, tale per cui ha delle espressioni genetiche diverse che le permettono di fare cose differenti. Allora, questo semplice cambio di angolazione ti fa cambiare tutta la visione sulla salute, tutta, capisci? Ecco. Starei qua insomma per ore, Paolo, ad ascoltarti, perché è proprio pane per i miei denti, spero, sono già convinto che anche molti a casa, visto che stanno arrivando a pioggia parecchi messaggi di complimenti, anche se ovviamente bisogna entrare in quello che io adoro, la cosiddetta quinta legge della nuova medicina, cioè della quintessenza, dove tutto è perfetto, tutto è sensato, siamo in piena biologia, cioè logica della vita, a noi sta il dovere, a noi Mari e a te il compito di divulgare, alle persone veramente il dovere di entrarci un attimo, di comprendere come quello che detto sì, è chiaro. Quello che hai detto te in maniera esemplare, che il corpo proprio non mente, se c'è qualcosa ovviamente che si è attivato, sta a noi nella comprensione di quelli che sono questi programmi magistrali e sapienti. E l'ultima, visto che mi hai parlato prima che della tua specializzazione del fatto dell'acqua, nel corpo umano, Paola, questa coerenza che tu hai spesso nominato, per caso l'acqua c'entra qualcosa? In questa mi viene in mente il grande Emilio del Giudice, Emilio del Giudice, che parlava appunto di questo dominio di coerenza, di questa orchestra che tutta a livello cellulare suona la stessa melodia, e il veicolo è l'acqua. Tu confermi, almeno vado a memoria, perché sono passati ormai decenni, confermi il ruolo dell'acqua? Ma certo, allora, nel senso che l'acqua, il fatto che il sistema vivente sia sostanzialmente una scultura frattale di acqua coerente e super coerente, è la ragione per cui noi siamo, come dire, abbiamo il permesso fisico ed epistemologico di parlare di coerenza e di ordine e quindi di senso biologico. Se non ci fosse questo tipo di substrato, no, proprio elettrodinamico della materia vivente, uno non sarebbe vivente, perché poi se uno vuole approfondire si vedrà come si fa a definire che un sistema è vivente o no, non sarebbe in fase vivente. Due, non ci sarebbe neanche la possibilità di dare delle risposte ordinate. Come diceva Del Giudice in una bella, i suoi fantastici aneddoti, sempre molto efficaci e ironici, sì. Cioè se le si incontrassero come lo ritiene la biochimica di mainstream, cioè secondo degli urti diffusivi, in qualche modo casuali, se ti si incontrano certe molecole e dici buonasera, se te ne si incontrano altre ti gratti la testa, e se ne si incontrano altre fai un tumore, per dire. Ma non è così. Tutto questo, dal tuo dire buonasera al tuo grattarti la testa, ad anche a fare questa cosa che io smetterei di chiamare tumore, che vuol dire tumori, ma sì, hai un processo in fisiologia speciale che ha un suo senso e serve per salvarti la pelle, e quindi quello che devi capire è qual è la ragione per cui l'hai attivato, semmai. L'unica possibilità per cui tutte queste cose sono sensate, l'unica motivazione, scusami, è proprio perché c'è sotto un ordine. Siamo fatti al 99% e oltre di molecole d'acqua sul numero totale, sì, che non è la frazione in peso, ma è la frazione molare, e proprio grazie a questa sovrabbondanza, a questa proprio preponderanza dell'acqua, che è in una fase speciale, dove appunto, come hai detto tu, c'è sostanzialmente una correlazione di fase su tanti modi, poi è complesso perché c'è tutto un rapporto di gerarchie, di frequenze, eccetera. Poi se uno volesse approfondire, io ti ho lasciato poi in chat un link a cui possono andare a guardarsi qualcosa. Se questa coerenza è l'unica condizione che permette proprio l'ordine, la risposta ordinata e l'emergere del senso biologico intrinseco in tutti quei processi che vengono innescati da eventuali stimoli che appunto possono essere dall'incontro con una specie batterica a te sconosciuta il fatto che ti stanno inseguendo 5 tigri incazzate. Benissimo, Paolo, e magari faremo più avanti una trasmissione anche tutta magari dedicata all'acqua, alla coerenza, cioè sono cose che secondo me meritano di essere approfondite, e da quanto capisco sei proprio la persona adatta a fare questo. Io ti devo salutare, siamo già andati ben oltre, ma era troppo interessante le cose che stavamo dicendo. Io ti ringrazio, Paolo. Grazie. Paolo Renatti qui con noi in diretta Radio Gamma 5. Paolo, spero di vederci quanto prima. Anche io, Marcello, ti ringrazio dell'invito, saluto tutti e spero di vederti anch'io presto, perché unire le forze è importante. Grazie dell'ospitalità. Assolutamente sì, grazie, ciao, buona giornata. A te, a voi, grazie.